con Daniele De Michele, Don Pasta, per parlare dell'evento Terre Colte, Villani Remix, al Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo a Roma, lunedì 1 luglio 2019. Ben trovato. Ciao, è sempre un piacere stare con la Giunta Rossa, massimo sostegno. Questo evento si svolge all'interno della mostra Terre Colte e tu farai un remix della colonna sonora dal vivo del tuo documentario. Raccontaci un po' tutto. Ci sono queste due cose che vanno insieme. La ragione per cui sono stato invitato al Maxi è questo progetto che si chiama Terre Colte, di Fondazione Conex Sud, che sostiene una serie di realtà che lavorano unendo il riuso di terre abbandonate e contemporaneamente l'agricoltura sociale, cioè chi lavora in campagna, diciamo, sono persone che hanno situazioni di disagio, cioè vale a dire donne che hanno subito violenza, migranti, portatori di handicap. Quindi questo è intanto diciamo, il cappello. Io faccio una sorta di mostra che presenta diciamo, la mostra sociale di questo progetto. Di fianco, quindi ci sarà questa sala che si può visitare con questa mostra fotografica, una sorta di mostra installazione. E poi invece nel piazzale del Maxi, all'interno della programmazione estiva, farò il Villani Remix, cioè utilizzerò tutto il mio archivio di immagini di questo giro di 5-6 anni che mi ha portato a filmare i Villani poi, remixandolo dal vivo, cioè utilizzando la colonna sonora che faranno i musicisti che hanno fatto la colonna sonora, quindi Marco Messina, Marco Bardoscia, Ernesto Nobbi, Sasha Ricci, con anche Gavino Murgia e con tre schermi, cioè vale a dire che tutte le immagini vengono splittate su tre schermi in modo da poter tutte remixare dal vivo. Rispetto alla mostra installazione, il resoconto di quanti spazi hai visitato? Sono 9 realtà, di cui 4 in Sicilia, 2 in Puglia, poi una in Campania, una in Sardegna e una in Basilicata. Sono realtà che comunque sono gruppi di cooperative che lavorano nel sociale da molto ormai e che hanno utilizzato, diciamo, questa idea dell'agricoltura per inserire, diciamo, tutte le attività che riguardano la cooperazione sociale all'interno del tema dell'agricoltura, quindi che è interessante perché portano dentro tutta una serie di valori che sono quelli del valore sociale all'interno dell'agricoltura che invece ha le sementi autoctone, poi l'economia di chilometro zero. Sono meccanismi interessanti di ricostruzione dell'economia in un certo senso. Le hai realizzate parallelamente al lavoro documentario che stai portando avanti? No, no, questa è proprio una, diciamo, è una cosa fatta recentemente. Il documentario è costruito, sono passati 10 anni di lavoro praticamente sulla bicicletta, quindi ho portato avanti centinaia di interviste con contadini, pescatori, cosa che poi mi ha portato a fare i Villani. Questa invece è proprio una creazione nuova fatta apposta. Mentre peraltro sono nella fase in cui sto facendo il nuovo film invece con i Villani. Durante la mostra Terre Colte ci sarà la possibilità anche di vederlo il documentario o la proiezione sarà solo per il 1 luglio? No, il 1 luglio è proprio uno spettacolo, mentre invece il documentario, che io sappia, verrà presentato alla SNIA il 4 luglio per i TAP e poi forse a Isola del Cinema, quindi Villani può essere visto in questi due festival. E invece la mostra installazione che durata avrà? Fino a quando No, sarà visibile? purtroppo dura un giorno solo, diciamo, è tempo. Il giorno È dell'evento. esatto, è il giorno dell'evento, è una mostra leggera. Quanti sono gli scatti? In realtà sono 9, però per ognuno abbiamo variato molto, in alcune ce ne sono 4, in alcune 3, in alcune una sola gigante. E il lavoro interessante che è stato fatto è stato chiaramente un lavoro, diciamo, di archiviazione dell'informazione, cioè dire che per ognuno c'è una biancheria abbastanza approfondita. E poi il connubio viene fatto fra le foto fatte da Antonello Carboni, il mio aiuto regia, insieme a un lavoro grafico di Petters, che sono queste due cegnette che stanno a piazzare nella radio, che utilizzano solo tipografia a caratteri mobili, cioè l'antica tipografia, e sotto forma di arte, quindi lavoriamo, hanno lavorato a partire da ciò che è stato detto all'interno di queste didascalie, dalle interviste, diciamo, il riassunto delle interviste è stato fatto, è stato poi destrutturato in una frase che racchiude il concetto di quel progetto. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? C'è un evento Facebook? Sì, allora, c'è un evento Facebook del Maxi che mi dice tutto, ma basta anche andare sulla mia pagina di Topazza per vedere tutto il commento. E allora ricordiamo Terre Colte, Villani Remix, lunedì 1 luglio a Roma, al Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. La mostra Terre Colte insieme alla performance di Don Pasta, Villani Remix. Daniele, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, ciao, buon appetito.